Hashtag Autotrasporti. Buonasera da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì con Hashtag Autotrasporti, il programma di Radio 24 che racconta ed esplora il mondo dell'autotrasporto, un viaggio parallelo a quello che quotidianamente compiono le migliaia e migliaia di mezzi che portano a tutti di tutto. E partiamo con la rubrica del numero. 4 milioni al mese è il costo dell'interruzione dell'autostrada Palermo-Catania. La Sicilia resta spezzata in due in seguito al cedimento del viadotto Himera sulla Palermo-Catania e, come diciamo ormai da settimane, le conseguenze sono pesantissime. Le associazioni di categorie hanno quantificato il danno in 2,5 milioni al mese. Secondo un'analisi effettuata dallo studio Meta di Monza e dal laboratorio Traspol del Politecnico di Milano, gli effetti dell'allungamento dei tempi di percorrenza incideranno sui portafogli delle famiglie per 1,5 milioni al mese. In linea con noi il professor Paolo Beria del Politecnico di Milano. Noi abbiamo provato, utilizzando un modello di simulazione dei trasporti, abbiamo provato a simulare l'effetto della chiusura del tratto autostradale in Sicilia per vedere come l'utenza si sarebbe comportata nel modello a seguito della chiusura. Questo permette di stimare i nuovi percorsi e quindi di stimare l'aumento del costo sia di viaggio che dei tempi di viaggio. Allora, i dati sono una matrice origine e destinazione che abbiamo stimato noi, su cui stiamo lavorando noi, e comprende solo per ora il traffico passeggeri, e poi questo è applicato alla rete attuale con e senza il viadotto. Le simulazioni ci dicono che i passeggeri, quindi le autopasseggeri, avranno un costo aggiuntivo in un anno di 18 milioni di euro, che è dovuto sia alle maggiori percorrenze che al maggior tempo di viaggio. Da tempo il settore dell'autotrasporto attira la criminalità organizzata, lo confermano le inchieste condotte in questi anni da varie procure. Per contrastare le infiltrazioni nell'ambito dello Sblocca Italia, il Parlamento ha approvato un provvedimento proposto dal vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Ivan Catalano. Il testo introduce tra gli attestati di onorabilità necessari per iscrivere e restare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori l'adempimento dei requisiti antimafia. L'attestato dell'onorabilità non sarà posseduto o sarà perduto per le imprese che subiscono un'informativa antimafia interdittiva e dunque queste imprese non potranno più svolgere attività di autotrasporto per conto terzi. Massimo De Donato ha intervistato il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Ivan Catalano. L'esigenza nasce da una sollecitazione che ho avuto da alcune associazioni di categoria, in quanto si sentiva la necessità di avere uno strumento più efficace per la lotta alla criminalità e alle associazioni mafiose nel campo dell'autotrasporto. La certificazione antimafia, come sappiamo, non è in grado da sola di escludere dall'attività quelle società che hanno collusioni con la mafia oppure sono vittime del sistema mafioso. Serve anche lo strumento dell'interdittiva antimafia, che consente al pubblico di bloccare sul nascere la possibilità di far fare la professione dell'autotrasporto a queste società che hanno avuto a che fare con la mafia anche solo, diciamo, in odore di mafia, perché come sappiamo l'informativa viene emanata dalla prefettura anche se una società viene, diciamo, in odore di mafia. Questo strumento è operativo già da alcuni mesi, dal 1 gennaio del 2015, quindi questo significa che tutte le aziende che vogliono avvicinarsi a questo settore devono avere appunto questa interdittiva. Però c'è una sorta di sanatoria per questo periodo. Perché? Perché ancora lo strumento, diciamo, informatico non è del tutto in funzione, quindi nel periodo in cui la banca dati unica antimafia verrà messa online al 100%, occorre un periodo, diciamo, di autocertificazione per queste imprese. Comunque sia, tutto ciò può essere evitato iscrivendosi alle whitelist delle prefetture, come già avviene per le aziende che vogliono concorrere agli appalti pubblici, ad esempio. Ecco, cosa deve fare un'impresa di autotrasporto che volesse iscriversi alle whitelist delle prefetture? Esiste una procedura telematica e comunque varia da prefettura a prefettura, dove ci si può iscrivere semplicemente comunicando i dati dell'azienda, dopodiché è la prefettura che fa il controllo, ha l'onere del controllo. Per il comparto dell'autotrasporto, i primi mesi del 2015 paiono confermare la tendenza già emersa nel secondo semestre dell'anno scorso, cioè si intravedono timidi segnali di ripresa, anche se gli effetti della crisi continuano a manifestarsi in termini di aziende chiuse e posti di lavoro cancellati. In particolare, il trasporto delle merci in Europa è in aumento, dicono gli ultimi dati. Un trend, una sfida da intraprendere per le imprese nazionali che, secondo Emanuela Bertoni, presidente di Unitae, deve impalcarsi su una condizione irrinunciabile. Sulla capacità di fare imprenditoria in un modo diverso, cioè l'idea che le imprese italiane e chi vuole, cioè soprattutto le imprese che vogliono crescere in ambito internazionale, ne abbiano la possibilità. Io riscontro nelle nostre aziende, che sono aziende medie, per cui hanno effettivamente anche una possibilità di entrare in un mercato che è diverso da quello nazionale, la penalizzazione è riferimento naturalmente al costo del personale, ma c'è la volontà delle imprese italiane di diventare il protagonismo anche nel mondo internazionale, e non soltanto europeo, ma anche nei nuovi mercati che sono quelli del Nord Africa piuttosto che i paesi dell'est, perché effettivamente la potenzialità degli imprenditori italiani di fare un buon trasporto internazionale c'è. Siamo molto penalizzati perché in una comunità europea dove purtroppo esclusivamente legata al costo del personale più basso, ci siamo ritrovati ad avere pochissimo spazio, perciò quello che siamo riusciti a fare è delocalizzare. Ed è purtroppo una scelta difficile da comprendere quando invece vorremmo fare il nostro mestiere con la testa nel nostro paese e poi effettivamente con i camion dappertutto. Ci sono paesi che si sono già battuti a livello legislativo, con chiaramente le normative interne, a tutela delle imprese nazionali. A livello italiano siamo un po' indietro. È una delle cose che verranno affrontate nelle prossime settimane. Sicuramente il costo minimo del costo del dipendente è una delle cose che verrà affrontate anche dal nostro ministero. Noi ci stiamo lottando comunque con altre confederazioni a livello europeo a Bruxelles proprio per riconoscimento di questa cosa. Se noi riuscissimo effettivamente a fare, non dico un contratto internazionale del trasporto, ma sicuramente basarci su dei costi minimi dove non si può scendere, allora comincerebbe ad avere più senso avere un autista che ha veramente un contratto internazionale, cioè avere un autista in Italia che fa internazionale sarà come averlo in Francia, come averlo in Bulgaria piuttosto che in Lettonia. È quello su cui contiamo, perché quella fa la differenza, perché le nostre flotte effettivamente sono estremamente penalizzate, ancora di più dei francesi, ancora di più dei tedeschi. Questa settimana, nella rubrica dedicata al racconto del trasporto di un prodotto, di un bene o di una merce, ci occupiamo di tesori, spesso di inestimabile valore. Parliamo cioè di opere d'arte. Konrad Baumgartner di Gondrad ci accompagna in questo viaggio. Significa fare un'operazione di logistica, cioè portare al posto giusto, nel momento giusto, dei beni che però sono di inestimabile valore e molto spesso neanche sostituibili, se pensiamo all'arte antica. Quindi deve essere un'operazione logistica, di movimentazione, di trasporto a rischio zero. Trasportare opere d'arte, dicevamo, vuol dire trasportare tesori e quindi garantire la massima sicurezza. Deve essere l'opera d'arte protetta contro qualsiasi rischio di danneggiamento. Quindi nel nostro caso costruiamo delle casse apposite che proteggono all'esterno con un manto in legno molto forte, all'interno con delle imbottiture che servono da ammortizzatore, in modo che anche un'eventuale sollecitazione, che ovviamente è in un trasporto inevitabile, non crei danni all'opera d'arte. Per veicolare opere d'arte in giro per l'Italia e per il mondo occorrono mezzi particolarmente attrezzati. Anche i mezzi sono dotati di ammortizzatori pneumatici ad aria, in modo da minimizzare le sollecitazioni. I cassoni sono tutti furgonati, con possibilità di ancoraggio all'interno del furgone, e in alcune parti, quando parliamo di arte antica, arte rinascimentale, hanno anche una dotazione per la temperatura controllata, perché l'arte antica addirittura viene sia nel deposito, nel magazzino, sia nel camion, trasportata, movimentata con una temperatura che viaggia all'interno di un certo range, quindi né troppo caldo né troppo freddo, e anche con la umidità, il tasso di umidità controllata. Hashtag Autotrasporti del lunedì termina qui. Vi ricordo i prossimi appuntamenti della settimana in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori: il mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno e il sabato alle 14. Da Andrea Ferro, buonasera a tutti.